si tratta della respirazione di Benson e Shapiro. È una respirazione che è stata messa a punto qualche decennio fa, continuamente sottoposta a studi perché ha un'efficacia particolare, soprattutto sulle funzioni cognitive, che è l'aspetto che a noi interessa di più. Sì. Questa respirazione, infatti, si è visto che può ridurre le quote di ansia, le quote di stress, addirittura anche il tono depressivo può essere, diciamo, inclinato significativamente. Inoltre aumenta le capacità empatiche, quindi di mettersi nei panni degli altri, e a livello cognitivo le capacità attentive di concentrazione. Allora, il format è quello normale della respirazione, per cui ci si mette comodamente seduti in un ambiente, diciamo, dove non ci sono troppe distrazioni luminose o sonore, si chiudono gli occhi, si allenta il tono muscolare, per cui ci si rilassa, e poi si respira, possibilmente, se si può, col naso, con una respirazione normale, non ci deve essere una respirazione necessariamente profonda. E quando l'aria entra e quando l'aria esce, si cerca di concentrarsi appunto sull'aria che passa attraverso le narici. La particolarità qual è? È che nel momento in cui si espira, bisogna dire mentalmente la parola one, come il termine uno in inglese, per intenderci. Basta dire ogni volta one quando si espira. Questa procedura va fatta per 10-20 minuti. E in questo periodo può capitare comunque che i nostri pensieri ci portano altrove, per cui non preoccupiamoci se ci distraiamo, se ci deconcentriamo. La parola magica è one. E noi ci facciamo aiutare anche da questo brano. Professor Iannoccari, grazie. One, one, one. Buona giornata. Anche a lei. Buongiorno, Nicoletta.